mio marchio, ho cambiato il numero di telefono, se mi rompevano le balle. E quando me ne rompi tu a me, che mi fai pennacchi e fischi, è musica, eh? E che mi hai messo pure la radio nel telefono. Brutto delinquente che non si altro, tu e quell'altro guasto di Danilo Sanna, hai capito? Tanto male vi denuncia tutti e due, capito? Perché il cognome tanto è quello, capito? Cosa credi che non ti ho riconosciuto con l'innesco del microfono? Che prima eri sull'uno quando stavo parlando io, eh? Mi scuso con Silvia se sono entrato in questo canale, eh? Mi scuso anche con gli altri. Però vabbè, a cacciare ancora ti ci prende, capito? Tu vai con gli amici tuoi chi sono? C'hai Antonio, c'hai quell'altro amico tuo, eh? Capito? Aspettina, che io mi devo sentire, meno male che mi ho cambiato numero, a me non mi frega niente, capito? Il telefono lo puoi ficcare pure in culo, capito, stronzo? Poi è inutile che tu fai finta di niente, capito? Perché se ti ritrovo con auto, capito? Da fuoco io nel tuo acqua, poi voglio vedere cosa vai a fare tu.